Anche la lettura dei giornali mi era odiosa e per di più non è inoffensiva. Dentro di noi, in effetti, da ogni idea, come da un crocevia in una foresta, partono tante strade diverse che, nel momento in cui meno me l'aspettavo, mi trovavo davanti un nuovo ricordo. Il titolo della melodia di Fauré, Il Segreto, mi aveva portato al segreto del re del duca di Broglie, il nome di Broglie a quello di Chaumont. Oppure la parola Venerdì Santo mi aveva fatto pensare al Golgota, la parola Golgota alla sua etimologia che è, pare, l'equivalente di Calvus Mons, Chaumont. Ma qualunque fosse la strada per la quale ero arrivato a Chaumont, subito avvertivo un colpo così crudele che pensavo assai di più in quel momento a scansare il dolore che a chiedergli dei ricordi. Qualche istante dopo il colpo, l'intelligenza, che come il rumore del tuono non viaggia altrettanto veloce, me ne portava la ragione. Chaumont mi aveva fatto pensare alle Buttes Chaumont, dove Madame Bontemps mi aveva detto che André andava spesso con Albertine, mentre Albertine mi aveva detto di non aver mai visto le Buttes Chaumont. A partire da una certa età, i nostri ricordi sono talmente intrecciati gli uni agli altri che la cosa a cui si pensa, il libro che si legge, quasi non ha più importanza. Ovunque si è messo un po' di se stessi, tutto è fecondo, tutto è pericoloso, e nella pubblicità di un sapone si possono fare scoperte altrettanto preziose che nei pensieri di Pascal. Un fatto come quello delle Buttes Chaumont, che a suo tempo mi era parso futile, era in sé, contro Albertine, molto meno grave della storia della donna delle docce o della lavandaia. Ma, in primo luogo, un ricordo che ci raggiunge fortuitamente trova in noi una capacità intatta di immaginare, ossia, nella fattispecie, di soffrire, di cui usufruiamo solo in parte quando siamo invece noi, con l'applicazione del nostro intelletto, a ricreare un ricordo. Ma a questi ultimi, donna delle docce, lavandaia, sempre presenti sebbene oscurati nella mia memoria, come quei mobili situati nella penombra d'una galleria che pur senza vederli si evita comunque d'urtare, io mi ero abituato. Al contrario, da molto tempo non pensavo alle Buttes Chaumont o, per esempio, allo sguardo di Albertine nello specchio del casinò di Balbec, o al suo inesplicato ritardo la sera in cui l'avevo tanto aspettata dopo il ricevimento Guermantes, tutte parti della sua vita che restavano al di fuori del mio cuore e che avrei voluto conoscere perché potessero assimilarsi, annettersi adesso, raggiungervi i ricordi più dolci che vi formava una Albertine interiore e davvero posseduta. Sollevando un angolo del pesante velo dell'abitudine, l'abitudine stupidente che per tutto il corso della vita ci nasconde pressoché l'intero universo e che, in una notte profonda, lasciando immutate le etichette, sostituisce ai veleni più pericolosi o più inebrianti della vita qualcosa di anodino che non produce alcuna delizia, essi tornavano a me come il primo giorno, con quella novità fresca e penetrante di una stagione che riappare, di un cambiamento nella tranquilla monotonia delle nostre ore che anche nel campo dei piaceri, se saliamo in vettura nella prima bella giornata di primavera o usciamo di casa all'alba, ci fanno avvertire le nostre insignificanti azioni con un'esaltazione lucida, grazie alla quale quell'intenso minuto prevale sul totale dei giorni anteriori. I vecchi giorni coprono a poco quelli che li hanno preceduti e vengono a loro volta sepolti da quelli che li seguono. Ma ciascuno dei giorni passati è rimasto depositato in noi, come in un'immensa biblioteca, dove dei libri più antichi c'è un esemplare di cui nessuno, probabilmente, farà mai richiesta. E tuttavia, basta che questo vecchio giorno, attraversando la traslucidità delle epoche successive, risalga alla superficie e si distenda nel nostro essere, coprendolo per intero, perché per un istante i nomi riprendano il loro vecchio significato, gli esseri il loro vecchio volto e noi il nostro animo d'allora, e sentiamo, con una sofferenza vaga ma fattasi sopportabile e destinata a non durare, i problemi da molto tempo divenuti irresolubili che allora ci angosciavano tanto. Il nostro io è fatto della sovrapposizione dei nostri stati successivi, ma questa sovrapposizione non è immutabile come la stratificazione d'una montagna. Incessanti sollevamenti fanno affiorare alla superficie strati più antichi. Mi ritrovavo dopo il ricevimento della principessa di Guermantes in attesa dell'arrivo di Albertine. Cosa aveva fatto Albertine quella notte? Mi aveva tradito? Con chi? Le rivelazioni di Aimé, anche se le avessi accettate, non riducevano affatto per me l'interesse ansioso, desolato di questa domanda inaspettata, come se ogni diversa Albertine, ogni nuovo ricordo, ponesse un problema di gelosia particolare cui non si potevano applicare le soluzioni degli altri. Ma non avrei voluto sapere soltanto con quale donna avesse passato quella notte, bensì quale piacere particolare avesse provato, cosa fosse accaduto dentro di lei in quel momento. Qualche volta, a Balbec, Françoise era andata a cercarla e mi aveva detto d'averla trovata affacciata alla finestra con un'aria di inquietudine, di ricerca, come se stesse aspettando qualcuno, anche se avesse appurato che la fanciulla attesa era André. Qual era lo stato d'animo in cui Albertine l'aveva aspettata? Lo stato d'animo nascosto dietro quello sguardo di inquietudine e di ricerca? Che importanza avevano per Albertine quei suoi gusti? Che posto occupavano nelle sue preoccupazioni? Ahimè, ricordando quanto io stesso mi fossi agitato ogni volta che avevo notato una fanciulla che mi piaceva, certe volte soltanto per averne sentito parlare senza averla vista, la mia ansia di farmi bello, di presentarmi bene, i miei sudori freddi, mi era sufficiente per torturarmi immaginare lo stesso voluttuoso subbuglio in Albertine, come con l'uso dell'apparecchio di cui, dopo la visita d'un certo medico che s'era mostrato scettico circa la realtà della sua malattia, mia zia Léonie s'era augurata l'invenzione e che facesse provare al medico perché se ne rendesse ben conto tutte le sofferenze del suo paziente. Ed era già abbastanza per torturarmi, per dire a me stesso che le conversazioni serie con me su Stendhal e su Victor Hugo dovevano aver avuto per lei al confronto ben poco peso, per sentire il suo cuore staccarsi dal mio, incarnarsi altrove, attratto da altri esseri. Ma né l'importanza che quel desiderio doveva avere per lei, né le riserve che gli si formavano intorno potevano rivelarmi cosa esso fosse per lei qualitativamente, e tantomeno come lei lo qualificasse quando ne parlava a se stessa. Nella sofferenza fisica, almeno, non dobbiamo scegliere noi stessi il nostro dolore. La malattia lo determina e ce lo impone. Nella gelosia, invece, è in qualche modo necessario saggiare sofferenze di ogni genere e grandezza prima di fermarci su quella che ci sembra più conveniente. E quanto maggiore è la difficoltà quando si tratta di una sofferenza come questa, la sofferenza di sentire che colei che amavamo provava piacere con altri esseri diversi da noi, capaci di darle sensazioni che noi non sappiamo offrirle o perlomeno di rappresentare per lei con la loro configurazione, la loro immagine, i loro modi, qualcosa di affatto diverso da noi. Ah, perché Albertine non s'era innamorata di Saint-Loup? Quanto minore sarebbe stata, mi sembrava, la mia sofferenza. Noi ignoriamo, certo, la sensibilità particolare di ciascun essere, ma di solito non sappiamo nemmeno di ignorarla perché la sensibilità degli altri ci è indifferente. Per quanto concerneva Albertine, dal modo d'essere della sua sensibilità sarebbero dipese la mia infelicità o la mia felicità. Sapevo che essa mi era ignota e il fatto che mi fosse ignota era già per me un dolore. I desideri, i piaceri ignoti che Albertine provava, io ebbi l'illusione una volta di vederli, un'altra di udirli, di vederli quando qualche tempo dopo la morte di Albertine André venne a casa mia. Per la prima volta mi sembrò bella. Mi dicevo che quei capelli quasi crespi, quegli occhi scuri e cerchiati erano probabilmente ciò che Albertine aveva tanto amato. La materializzazione davanti a me di ciò che Albertine portava dentro le proprie fantasticherie amorose, di ciò che aveva visto con gli occhi anticipatori del desiderio il giorno che era voluta tornare così precipitosamente da Balbec. Oscuro fiore ignoto riportatomi da oltre la tomba d'un essere in cui non avevo saputo scoprirlo. Insperata esumazione di una reliquia inestimabile, mi sembrava di vedermi davanti il desiderio incarnato di Albertine, che André era per me come Venere era il desiderio di Giove. André rimpiangeva Albertine, ma sentii subito che l'amica non le mancava. allontanatane di forza dalla morte, sembrava essersi facilmente rassegnata a una separazione definitiva che io non avrei mai osato chiederle quando Albertina era viva, tanto avrei temuto di non riuscire ad ottenere il consenso di André. Sembrava invece accettarla senza difficoltà, quella rinuncia, ma proprio nel momento in cui essa non poteva più giovarmi. André mi lasciava Albertine, ma morta, e privata ai miei occhi non soltanto della vita, ma anche retrospettivamente di un po' della sua realtà, perché vedevo che non era indispensabile né unica per André, se lei aveva potuto sostituirla con altre. Viva Albertine! Non avrei mai osato chiedere ad André delle confidenze sul carattere della loro amicizia reciproca e con l'amica di Mademoiselle Vanteuil, non essendo in fin dei conti sicuro che André non riferisse ad Albertine tutto quanto le dicevo. Adesso, un interrogatorio del genere, quando anche fosse rimasto senza risultato, sarebbe stato almeno senza rischi. Parlai ad André. Non in tono interrogativo, ma come se lo sapessi da sempre, forse da Albertine, dell'inclinazione che lei stessa, André, aveva per le donne e dei suoi rapporti con Mademoiselle Vanteuil. Confessò tutto senza alcuna difficoltà, sorridendo. Dalla sua confessione potevo trarre conclusioni crudeli. Prima di tutto perché André, così affettuosa e civettuola a Balbec con tanti giovanotti, non avrebbe mai ispirato a nessuno il sospetto di abitudini che non si sognava di negare, cosicché, scoprendo questa nuova André, potevo pensare per analogia che Albertine le avrebbe confessate con la stessa facilità a chiunque tranne che a me, che sentiva geloso. Ma d'altra parte, poiché André era la migliore amica di Albertine, che apposta per lei, probabilmente, era tornata da Balbec, ora che André confessava quei gusti, la conclusione che la mia mente avrebbe dovuto necessariamente ricavarne era che fra Albertine e André ci fosse sempre stata una relazione. Certo, come in presenza di una persona estranea non sempre si osa prendere conoscenza del regalo che ci consegna e si aprirà il pacco solo quando il donatore se ne sarà andato. Finché André fu presente, io non rientrai in me stesso per esaminarvi il dolore di cui era stata portatrice e che già sentivo provocare ai miei servitori psichici, i nervi, il cuore, grandi turbamenti, di cui per buona educazione fingevo di non accorgermi, conversando invece nel più amabile dei modi con la fanciulla che avevo mia ospite ed evitando di dirottare lo sguardo verso quegli incidenti interiori. Mi fu particolarmente penoso sentire André dirmi, parlando di Albertine, «Ah sì, le piaceva tanto che s'andasse a passeggiare nella valle di Chevreuse». All'universo vago e inesistente in cui si svolgevano le passeggiate di Albertine e di André, mi sembrava che quest'ultima, con una creazione posteriore e diabolica, avesse ora aggiunto all'opera divina una valle maledetta. Sentivo che André mi avrebbe detto tutto ciò che faceva con Albertine, e pur cercando per cortesia, per abilità, per amor proprio, forse per riconoscenza, di mostrarmi sempre più affettuoso via via che si restringeva lo spazio che ancora avevo potuto concedere all'innocenza di Albertine, mi sembrava di capire che a dispetto dei miei sforzi avevo assunto l'aspetto impietrito di un animale intorno al quale descrive con lentezza un cerchio progressivamente ristretto l'uccello fascinatore. Senza nessuna fretta, perché è sicuro di piombare quando vorrà sulla vittima che non può più sfuggirgli. Eppure la guardavo, e con quel che resta di brio, di naturalezza e di padronanza di sé, alle persone che vogliono far finta di non temere d'essere ipnotizzate da chi le sta fissando, dissi ad André questa frase incidentale. Non ve ne avevo mai parlato per paura di irritarvi, ma adesso che ci è così dolce parlare di lei, posso dirvi che sapevo da molto tempo che avevate rapporti di questo genere con Albertine. D'altronde vi farà piacere, anche se già lo sapete. Albertine vi adorava. Dissi ad André che sarebbe stato per me di estremo interesse se mi avesse consentito di assistere, lei magari limitandosi a semplici carezze che non la mettessero troppo in imbarazzo davanti a me, mentre faceva quelle cose con qualche amica di Albertine che avesse gli stessi gusti, e nominai, per sapere, Rosemont, Berthe, tutte le amiche di Albertine. «A parte il fatto che per niente al mondo lo farei davanti a voi», mi rispose André, «credo che nessuna di quelle che dite abbia questi gusti». Avvicinandomi mio malgrado al mostro che mi attirava, replicai, «Ma come? Non vorrete farmi credere che di tutta la vostra banda lo facevate solo con Albertine?» «Ma non l'ho mai fatto con Albertine», Andiamo, mia piccola André. Perché negare cose che so da almeno 3 anni? Non ci trovo niente di male, al contrario. Ecco, a proposito della sera in cui Albertine, forse ve ne ricorderete, aveva tanta voglia di andare con voi il giorno dopo da Madame Verdurin. Prima che potessi mettere insieme la frase, vidi passare negli occhi di André, rendendoli appuntiti come certe pietre che proprio per questo i gioiellieri fanno fatica a utilizzare, uno sguardo preoccupato, come le teste di quei privilegiati che sollevano un angolo del sipario prima dell'inizio della rappresentazione e subito si defilano per non farsi vedere. Disparve quello sguardo inquieto. L'ordine si ristabilì, ma sentivo che tutto quanto avrei visto adesso sarebbe stato accomodato artificialmente per me. In quel momento mi scorsi nello specchio. Fui colpito da una certa somiglianza fra me e André.